diverse. L'uomo è digitale virus che attacca il sistema nervoso. Quindi non so che diavolo mi succede. Che cosa accadrebbe se il male si formerebbe dentro di te? Ho dei sintomi strani. Babbo! Non posso credere che non ci sia un altro modo. Non ti fare coinvolgere! È un virus pazzesco! Billy, chiamo un dottore! Io non posso fare una cosa del genere a Bob. Io sto male, non più a fare niente. È una cosa che ti sei immaginato tu. Un virus micidiale che ti fa stare proprio una cosa malissimo. Ma nessuno può dirglielo. Ecco il nostro malato immaginario. Un virus a cui non puoi sfuggire, ma neanche proprio. Guarda, io ci ho provato niente. È un caso dispendioso. Ma che cos'ho? È solo qualche colpo di tosse. È sano come un pesce. Dottore, chiami un dottore! Tu sei il mio più caro mio amico, mi stai tradendo! Fermi, amici! Questa storia deve finire! Se ti togliessero il lavoro. Fuori di qui, testa di rapa! Dai, fatemi continuare. Sei licenziato! Vabbè, non vado in se ti togliessero l'amore tuo. Bob, io non ti amo più. Se ti togliessero l'amicizia. Donne! Se ti togliessero il talento. Aia! Se ti togliessero l'automobile. Ma una volta non era così. Scommetto che ti piacerebbe rivederlo. Ti va pure? E se poi volessi vederti sotto la gonna? Ti facevo più peloso. Oh, Billy. Ma il presente riemerge. Delle pause, delle pause. Dall'omologo romanzo di Phil Norimberga. Non ti amo più perché ti sei aderito. Maccio Capatonda. Hector Babone. Babbo. Fabio Di Nino. Amalia Fregliosi. Sarò come dice lei. Ti abbandono, Bob. Buonanotte. E per la prima volta sullo schermo cinematografo, il piccolo Riccardino Fuffolo. Chi sei tu? Dottore! Ho la febbra! La febbra. Il nuovo film di Ennio Anni. She's a small wonder, a child unlike other girls. She's a miracle, and I grant you, she'll enchant you at her sight. She's a small wonder, and she'll make your heart take flight. La la la la la la. Microchips here and there. She's a small wonder. Brings love and laughter everywhere. Shyamalan. A tutti quanti, Shyamalan. Dal niente, per Shyamalan. Che bello. Come stai? Bene. Come stanno i tuoi polmoni? Hai deciso di iniziare a rifumare? Tra l'altro sì, perché stavo meglio quando fumavo. Vedi, si stava bene quando si stava ieri sera, male. Da ieri sera rifumo. Sì, si stava bene quando si stava male, perfetto. Non peggio, meglio. No, male bene, male. Senza siamo la calmi. Febbra. La febbra, mitico, veramente. Andrebbe visto tutto di nuovo. Vabbè. Buonasera dalle vostre bruschette, Accademia della Brusca, diretta su Radio Wombat. Sono le 20.04, la puntualità è sempre quella svizzera. O ci siamo... E siamo puntuali, sì. o non ci siamo proprio. Non abbiamo le mezze misure. Esatto, d'altronde lei è sarda, io sono ferrarese. Sì, vedrai, è così, non vi stupiamo mai. No. Sempre la solita minestra. No, siamo puntuali o non ci siamo, sempre così, non cambiamo siamo mai. Siamo puntuali e non ci siamo mai, ma una cosa è certa, siamo sempre sul pezzo. Ah, di sicuro. Sempre, appena c'è una novità di quelle proprio prelibate che sono la ribalta della cronaca e delle notizie, noi ovviamente ce le accaparriamo e le facciamo nostre in chiave linguistica. Cari miei, ci siamo. Si parlerà, come avrete intuito, immagino, dal nostro spottino d'apertura che parla di febbra. Si parlerà del coronavirus, ovviamente. Covid-19. Ecco. No, Come te la stai passando tu? Tutto bene? Tutto bene. Bene. Sì. Tutto a posto. Forse io l'ho già fatto. Hai fatto la spesa, hai caricato la tua macchina di provviste. Ho caricato la tua dispensa, la è piena e non si pollo. Chiude. Però non mangi carne, guarda. No, però guarda, ho riempito la macchina di petti di pollo. Ti è sfuggito di rollare il tacchino. Prima andava anche di comprare, non so, un po' di salsiccia, quella veneta, ovviamente la Lucanica. Certo. Dalla Lombardia cosa ci propongono al supermercato? Ecco, perfetto. Sì. Un saluto al nostro amico Lore, che è in regia da quelle parti, c'è, si sta girando. Da qualche parte e, c'è. Da Ferrara arrivavano notizie su una nuova, diciamo, versione del virus. È un virus che ti fa cantare male e si chiama, vabbè, Toto Codogno. Questa arriva dal reparto di medicina dell'ospedale di Ferrara. Vedi cosa riusciamo a prendere. Sono in contatto con delle menti superiori. Comunicazioni con le menti superiori. Riusciamo menti a tenere anche questo. Infermieristiche superiori, decisamente superiori. Sì. Oh, bene, su. Bando alle ciance. Direi... Non ti voglio tediare troppo, ti direi anche di... Anche abbiamo di, una trasmissione ricchissima stasera. Di iniziare così. Non poteva mancare. Loop della serata, signore e signori, per la Firenze che non ha paura dei virus. Per la Firenze che non teme le mascherine. Firenze! Per la Firenze che non teme di finire la mucchina. Spruzzi la mucchina! Va bene, torniamo però alla nostra normalità. Sì, vogliamo come sempre ribadire il fatto che l'Accademia della Brusca è una trasmissione che parla di linguistica. Che potrebbe non esistere. È una trasmissione che potrebbe benissimo lasciare spazio giovedì ad altre trasmissioni. È la trasmissione che parla di linguistica con birrini al seguito e musica trash. Questa sera abbiamo un mix tra musica trash come questa e in realtà un paio di pezzi che vengono dal punk, belli e questo, belli tutto questo corposi, deriva dalla nostra Madonna doppia personalità. E Blue Vomit. Sì, ovviamente, perché non saremo positivi al coronavirus, ma sicuramente siamo bipolari. Quello è molto probabile. Bene, dove abbiamo raccattato tutte le nostre informazioni? Allora, innanzitutto da uno dei... Solo luoghi seri. Solamente luoghi seri. Luoghi del web. Luoghi del web seri e sicuri dove potete sentirvi a casa. Booming Foundation. Pochi siti che leggo. Sono tre. Uno è quello dei terremoti. L'NGV. Brava. Booming e Carmilla. E la, no? Il Carmilla e Lercio. Ah, alternando. Okay, allora sono quattro. Leggo quattro siti nella mia quotidianità. Questo è quello che vi leggeremo questa sera a tratti. È un bellissimo articolo, una cronistoria dell'evoluzione del coronavirus in quel di Bologna. E con questo. Allora, l'articolo è apocalittico, ovviamente, e tremendamente basato sulla realtà. Ci sono delle, diciamo, delle chiavi di lettura e soprattutto presenta qualche terminologia che noi non conoscevamo e che vorremmo presentarvi stasera. Ma più che altro, non mi ricordo più cosa volevo dire, e con questo sottofondo tutto diventerà decisamente più festoso. Brioso, perché conosco persone che sperano di beccarsi il coronavirus per farsi 14 giorni di ferie. Ah, wow. Ma forse l'hai già avuto, ma non lo sai. Io sono stata ti hanno malissimo. Tamponata. Si diceva per l'appunto di poco fa che non suona bene dire sì, sono state tamponate 2000 persone. Suona proprio male. Sì, hanno ricevuto il tampone. Sono stati sottoposti al tampone. Meglio, sì. Meglio. Anche se tecnicamente forse si potrebbe tamponare. Dire. Chiediamo al medico di Ferrara, sentiamo un po' che dice. Sentiamo un po' in diretta. Insomma, introduciamo un po', visto che sono 10 minuti che parliamo a ruota libera. Niente, come sempre. Però iniziamo puntuali proprio per questo motivo, perché il tempo è prezioso, certo. Non risponderà in turno. Comunque proviamo, ci sorge un dubbio. Pole. Pole il tampone che tamponare. Bene. Okay. Allora, ci siamo. Vooming da Jap, anzi Jap, il blog di Vooming, diario virale, i giorni del coronavirus a Bologna. Dunque, si parlerà di mascherine, si parlerà di notizie gonfiate, si parlerà soprattutto di coronavirus. Sì, però qui allora, c'è anche un po' di Alzheimer, secondo me. Quello è forse un po' più... La vita che conduciamo, le 4 ore di sonno per notte. Sì, dunque... Sì. Ci raccontano che le mascherine erano pantomima, non prevenzione. La maggior parte della gente lo aveva capito, oppure prevaleva il timore del ridicolo. Era pur sempre una città che amava stare in gingheri. Fatto sta che le mascherine si vedevano solo quasi sui giornali e sui siti dei giornali. Ogni riferimento a giornali e giornali è puramente casuale. Nei primi giorni si era trattato sempre di operatori sanitari, infermieri, gente che lavorava in ospedale. Poi erano arrivate a valanga le foto del presunto, ed eccola la prima parola della serata, shock value. Oh, shock value è una terminologia che viene utilizzata anche generalmente nel mondo dell'economia e della finanza, però in inglese significa quel quid che ti fa... Che riesce a far scaturire una reazione scioccante nelle persone e quindi apre una voragine di di incapacità interpretativa della realtà. Succede nella borsa, succede nella medicina. Quindi tizi con la mascherina davanti al Duomo di Milano o in altri luoghi famosi. Questo è stato il primo shock value. A Bologna, eccoci qua, l'edizione locale di Repubblica mostrava ogni giorno foto di qualcuno che girava sotto i portici con la mascherina. Per la verità era sempre un fagiano isolato, attorniato da altre e altri che non la indossavano e forse lo compativano. Eppure Chiara, che lavorava in farmacia, ci raccontava di quante persone entravano e le chiedevano mascherine, dopo aver superato almeno 5 cartelli che avvisavano del loro esaurimento, come il nostro. Un conoscente si vantava di averne acquistate online un pacco da 10 per tutta la famiglia già all'inizio di febbraio. E comprare la mascherina era un modo per sentirsi efficienti, pronti alla battaglia, omologati e quindi più sicuri. Era il desiderio per un oggetto solo perché lo desiderano gli altri. Un mix di consumismo e paranoia, e questo mi sento proprio di urlarlo, very Emiliano. È bellissimo, perché poi l'immagine che hanno selezionato per affiancare questo testo è quella di quelli che andavano a raccattare quelli della peste, la prima misericordia, esatto, con questo lungo becco che serviva per non respirare direttamente l'aria. La peste. Esatto. Mi è venuta in mente più volte in questo periodo. Davvero? Infatti, io non ci avevo pensato, però è... Quindi la mascherina era l'equivalente individuale, personal, delle misure di prevenzione imposte alla cittadinanza. Perché Wuming, anzi Giappo in questo caso, ci sta inserendo tutta questa terminologia anglosassone? Perché in realtà in Italia noi non siamo assolutamente in grado di fronteggiare un'eventuale emergenza coronavirus, ma siamo assolutamente in grado di gonfiarla. E ci piace parlare così, no? Con queste terminologie mediatiche molto, molto lustrate e lucide, tipo personal e shock value. Sembriamo più preparati. Esatto, ma in realtà, insomma. E quindi non c'era bisogno di indossarla davvero. Contava il gesto, come certi eroinomani che rimangono dipendenti dal buco anche senza iniettarsi la roba. O come la sottoscritta che potrebbe tranquillamente fumare le sigarette di Asterix, basta fumarle. Ok. Tornato a casa, te ne dimenticavi, la imbucavi in un armadio e tanti saluti. Pura funzione apotropaica, un talismano. Nel frattempo, proprio facendo la coda in farmacia, potevi esserti beccato il virus. La deterrenza produce quel che vorrebbe evitare. Esilarante. Mitici. E nel tardo pomeriggio del 23 febbraio, parliamo di pochissimi giorni fa, avevamo perlustrato due quartieri, Navile e Porto, in cerca di mascherine. Da poche ore era arrivata l'ordinanza del governatore Bonaccini, tanto perentoria quanto ambigua nelle formulazioni, anche per via di rinquietante, eccetera. Sull'eccetera con la fionda. Sì, proprio. Sospensione di manifestazioni e iniziative di qualsiasi natura, di eventi di ogni forma di aggregazione, in luogo pubblico o privato, anche di natura culturale, ludico, sportiva, eccetera, si svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico. Ma non avevano scritto politica e sindacale. Ta-da. Nell'eccetera molti avevano letto precisamente quello. Il 29 c'è la manifestazione per Orso in Cirenaica, si diceva nelle mailing list. Che faranno? Manderanno la celere a caricarci in quanto untori? Maledetti untori. E secondo me ora ci starebbe bene un pezzo, sì, particolarmente bene. Uno dei due della selezione un po' punk della sì, serata. Dai. Sì, perché parlavamo di una novità del Wombat, i cappellini. Oh, ma facciamo un po' sì, sono appena arrivati i cappellini. del nostro merchandising, signore e signori. Abbiamo dei bellissimi cappellini, dico solo cappellini. Allora, neri e bordeaux, amaranto, cappellini. Cappellino, lo so comprate che lo state pensando. Il cappellino è quello con la visiera, sono berretti. Comprate il berretto. Siamo una trasmissione che deve puntualizzare su questo. Esatto. Oh, ecco, perfetto. Comprate per non, come dire, non cozzare troppo con il berretto. Berretti, come accattate ville. Girate subito tutti i posti e cercate il berretto del Wombat perché è bellissimo. E a proposito di Wombat, ricordiamo i nostri... i social, ma sì, sito wombat.noblogs.org, twitter.com/radiowombatfi, facebook.com/radio-wombat-firenze. Volevo vedere se lo ricordavo senza leggerlo, ma no. Dopo tre anni la risposta è no. E poi la mail, posta@wombat-siberia.net. Chiaramente il sito vi servirà per riascoltarci in streaming. Rivedere i podcast, scriverci i commenti, le sotto ogni podcast, dire quanto siete bravi, quanto siete belli, quanto siete buoni, eccetera, siete bellissimi visti in radio. E ho dimenticato qualcosa dei social? No, però okay. Abbiamo anche la nostra frequenza M1359. Per i fortunati che vivono in determinate zone, cercatela nella vostra autoradio, nelle vostre radioline di casa, 1359 frequenza M. E siamo soli nella M con la musica araba che riecheggia dopo le 6 e mezza con Radio di sera. Kebab e qualcosa di più, di russo, ma non troppo. Albanese, perché si abbassa la... Iono, troposfera, la Iono, non mi ricordo. Comunque. E comunque andiamo avanti. Continuiamo a leggere questa ordinanza esilarante di Bologna. Chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche di formazione superiore. Corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie, università per anziani ad esclusione dei medici in formazione specialistica tirocinanti delle professioni sanitarie. Io sto leggendo esattamente così con come la punteggiatura riportata. Salvo le attività formative svolte a distanza. Sospensione dei servizi d'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero gratuito, eccolo qua, a tali istituti o luoghi. I musei, ma non le biblioteche, dicono... dice Wuming, noi stessi, dicono, nei giorni seguenti avremmo continuato a lavorare nella sala studio di una biblioteca di quartiere piena zeppa di gente. Perché nel museo ci va qualcuno che viene da chissà dove, potrebbe essere un ferocissimo avventore della cultura che ti vuole fare causa. Quello che va in biblioteca è un disgraziato come noi, che figurati se ha soldi da spendere per pagare un avvocato che per fare causa perché ha preso l'influenza in biblioteca. E invece nelle scuole ci sono i genitori paranoici, quindi le scuole si chiude tutto quello che poi può salvarci da un'eventuale ripercussione legale. Legale, chiaro. Se non altro. Penso, poi non lo so. Sembrerebbe così, perché comunque anche la nostra fonte informatissima dice che è un'ordinanza piena di nonsense, vedi, per cui di buchi. E addirittura raccontano che il giorno dopo una circolare applicativa avrebbe tentato di mettere top, con solo il risultato di rendere la situazione ancora più contraddittoria e surreale. E più giù parlano di UNESCO, per cui teatro dell'assurdo d'inizio Novecento, quindi insomma. Poi parlavano di una perlustrazione. Quindi vedete questi termini che si incrociano, e anche la perlustrazione è abbastanza, insomma, inquietante come terminologia. La Bolognina era piena di gente. In Piazza dell'Unità si giocava a basket e si chiacchierava a capannelli, come sempre. Lì accanto il supermercato PAM era aperto e affollato, come al solito. Nessuno faceva incetta nevroticamente, nessuno portava la mascherina. C'erano scaffali semivuoti, ma la domenica sera succede sempre. Giusto, il ristorante cinese la sera prima aveva un aspetto diverso. In un sabato normale era impossibile trovare un posto a sedere senza aver prenotato. Invece, in tutto il locale, i clienti occupavano soltanto due tavoli. Capito. In compenso, i cinesi erano dappertutto, come era normale in Bolognina, e nessuno che li scansasse o gridasse loro qualcosa. L'emergenza sanitaria non faceva diventare razzista o sinofobo chi non lo era. Semmai faceva emergere un razzismo preesistente che usava il virus come pretesto per sfogarsi. È così. E ovviamente l'articolo è particolarmente lungo ed è molto molto molto bello, perché è un letterario, proprio è ricchissimo ed è una narrazione davvero davvero bella. E poi ci dicono forse che almeno a Bologna la paranoia era in gran parte confinata alla sfera mediatica social. A essere paranoica e ansiogena era stata per prima l'informazione mainstream. In seconda, ma rapidissima, battuta, quel mood si era impossessato della classe politica, degli amministratori locali e di una minoranza di persone comuni. Sì, almeno da noi sembrava proprio una minoranza, persone per lo più attempate e sole che credevano alla TV o a Facebook e si precipitavano in farmacia per accaparrarsi la famosa mucchina. Come se... vabbè. Si stava generando un grande paradosso. La regione Emilia-Romagna disponeva della chiusura di quasi tutti i luoghi di cultura e socialità, quelli dove si sarebbe potuta elaborare insieme l'emergenza, scuole, musei, teatri, cinema, e vietava le manifestazioni con un eccetera, mentre la gente continuava ad ammassarsi nelle stazioni e nei luoghi del consumo. I centri commerciali e i supermercati funzionavano as usual. Quel pomeriggio Jadel era stato all'IKEA e riferiva del sempiterno marasma di corpi che avanzavano a serpentone tra camerette di bimbi virtuali e tinelli abitati da spettri di famigliole. Bruno era passato all'Ipercop delle Lame, piena zeppa. Nelle palestre, le vedevi attraverso le vetrate che davano sui passaggi, ci si allenava come al solito, si sudava, ci si respirava l'alito vicino, ci si spogliava e si faceva la doccia negli stessi vani. È chiaro, certo. Sia chiaro, non stiamo dicendo che dovevano chiudere anche quelli, al contrario, facciamo notare che lo scopo dell'ordinanza non era la profilassi, stante quella situazione, che profilassi would my fair. Le strombazzate chiusure erano sanitariamente inutili, come era stato inutile bloccare i voli, mettere posti di blocco sulle strade, far camminare avanti e indietro poliziotti e militari in mimetica. Sì, anche perché poi tutto questo ci costerà veramente un patrimonio che riusciremo a riequilibrare dal punto di vista economico, penso, fra 6 anni. Sì. Cioè la crisi del 2020. Le chiusure dell'industria, insomma, le chiusure, la mancanza ormai di scambi commerciali, perché anche... Cioè a me va bene, nel senso non mi cambia proprio niente. Tanto tu stai continuando a lavorare, io qua... No, ugualmente. Anche io lavoro in quarantena sempre, per cui insomma... così. Beata. Sì. E quindi l'Italia era stata l'unico paese europeo a bloccare i voli dalla Cina. Null'altro che teatro, oltre che un contentino agli idioti e mestatori che sbraitavano chiudete le frontiere. Un provvedimento facilissimo da capire, ma di nessuna utilità, anzi, controproducente. A ogni epidemia si facevano le stesse cose col pilota automatico e ormai c'erano studi su studi a dimostrare che non servivano o non facevano proprio danni. Questa è una prima parte dell'articolo ed è una prima parte che abbiamo letto qui, che fa parte di un corpus di diverse puntate. Mi sembra che siano 3 o 4, vengono aggiornate ogni 2 o 3 giorni. Quindi vi consiglio di leggerle perché è veramente spassoso. Però devo mandare la pubblicità. Ah già, scusate, sì, oggi abbiamo lo spazio, ci chiedono un collegamento dalla RAI. Ci chiedono un collegamento. Diretta. Amici, ciao a tutti da Amadeus. Ovviamente tutti noi abbiamo la massima attenzione a qualsiasi notizia che riguardi il coronavirus. Allora è fondamentale osservare insieme alcune semplicissime regole, come quello di lavarsi le mani spesso, non toccarsi mai gli occhi, naso e bocca con le mani. E se dobbiamo starnutire e non abbiamo un fazzoletto monouso, facciamolo sulla piega del gomito. E altre regole molto semplici che trovate sul sito del Ministero della Salute. Aiutiamoci l'un con l'altro. Insieme ce la facciamo. Io proporrei starnutirsi sul gomito come nuova pratica sessuale. Però dall'altra parte, la parte esterna del gomito. È pieno io ci di sto provando, non ci riesco. Morirò. Anch'io non riesco. O farò morire. Ma questa era una delle due, diciamo, circolari trasmesse dal nostro sistema dal nostro Ministero della Salute. Questa era quella più, diciamo, più semplice. Ce n'era un'altra in cui Amadeus diceva: ovviamente non toccatevi, non toccatevi a vicenda, però non toccatevi nemmeno il naso e la bocca perché rimanete ciechi a fine mese. Cecità assicurata. A fine mese. Beh, dopo un po'. Quindi, grazie Amadeus per queste meravigliose. Per favore, prendi in mano la situazione, perché non prendere in mano niente, per carità. Allora, la Brusca vuole comunicarvi che probabilmente le prossime puntate saranno... Abbiamo i parasputi monouso. Sì, ma le prossime puntate saranno un po' osè, forse. Comunque è un principio di... un principio di Alzheimer. E allora parto subito. No. Non ce la fa, scappa la corona. No, lo so che può diventare banale, però ci sta troppo bene. Eccoci. Ci è scappata. Sì. Tutte spettinate. E io ho un po' difficile comunque, insomma. Io lo sono sempre, quindi pace. Passiamo alle parole del giorno, che ne passiamo dici? Passiamo alle parole del giorno e ovviamente, perché sennò non sarebbe la Brusca, non sarebbe la trasmissione di riferimento linguistico, di approfondimento culturale, come potete vedere, certo, di Radio Wombat. Con la C maiuscola. Allora abbiamo scelto chiaramente la parola paziente zero. Ovviamente. Che avremo sentito non so quante volte in questi ultimi 10 giorni, via. Sì. Io mi sono ritrovata a sussurrare la parola paziente zero mentre mi allacciavo le scarpe. Ci lascia il nostro unico ospite. Che non è intervenuto. Era malato di coronavirus, allora è venuto a trovarci perché gli altri non vengono, perché hanno paura di essere contagiati. Poverino, avete visto quanta discriminazione? Quanta discriminazione. Già la tosse. Che dire? Erano i momenti di saluti, cercavamo di coprire questi vuoti in diretta, ma non ci siamo riuscite perché saluti erano più importanti. Eccoci, dicevamo la parola paziente zero, che abbiamo sentito tantissimo, è entrata nell'uso comune ormai, lo era già, ma in questo momento la sentiamo più calda, più viva. Estremamente, paziente zero è molto fantascientifica. Ecco, non posso che pensare alla fantascienza, certo. Non so, è Cassandra Crossing, per esempio. Oh. Guarda. È tutto molto cinematografico e la nenia mi sta bevendo la birra perché non, birra. Lei non pensa che io possa ti voglio contagiare zero. Te sei la paziente 69 e stiamo introducendo questa la prossima puntata. Il vabbè. Significato di paziente zero ormai ci tocca farla magari. Sì. Il caso indice, il caso primario, oddio, ho già le canzoni in mente, fantastico, ecco. Vabbè. E, insomma, abbiamo delle differenziazioni, no? Paziente zero, caso indice, caso primario. Ce ne parli? Sì, ce ne parli, signorina Neri? Mo sicuramente. Il significato di paziente zero. Allora, io inizierei dal caso indice, che coerentemente sì, più. Sì, allora, sì, sì. Vediamo. Il caso indice è il paziente di un determinato focolaio che per primo viene individuato dalle autorità sanitarie. Quello che utilizzato per la descrizione di una patologia emergente e che non deve necessariamente essere la causa scatenante del focolaio stesso. Il soggetto responsabile di un focolaio invece è il caso primario. Questo termine, come specificato, può applicarsi solo a malattie infettive che si diffondono da uomo a uomo. Okay? Okay. Questo gruppo di persone, questo gruppo di uomini non deve essere necessariamente un paese o una nazione intera, ma anche una classe scolastica o in generale una comunità. Mentre invece il paziente zero, che in quanto termine colloquiale, viene usato come sinonimo di caso indice, il primo che abbiamo riferito, ma in realtà ci si riferisce al caso primario, che in, in epidemiologia vedete. Ha un significato specifico e differente. In pratica la nascita del termine paziente zero che abbiamo visto in quest'ultimo periodo non ha una base scientifica. È stato un po' utilizzato in maniera impropria, come lo era già stato fatto nel periodo in cui c'era l'HIV negli Stati Uniti, c'era insomma, l'esplosione dell'HIV negli Stati Uniti. E questa è un po' la differenza. E così come ci sono stati tantissimi termini che poi sono stati utilizzati in questo periodo. Di grande delirio. C'è stato. Sì. Aspetta, c'era anche qualcos'altro che saltò fuori, che però non coincideva. Però sì, insomma, c'è un po' questo delirio comunicativo, no? Beh, un'altra parola è Decamerone. In ambito giornalistico, comunque, visto un pochino, uno cerca di bombare sui soliti temi, vediamo quale giornale viene letto per primo, si sa. Niente di nuovo. Non saprei in realtà che cos'altro aggiungere, nel senso che ci si sta comunque, anche in questo caso, nel caso di paziente zero, ci si sta riferendo a terminologie che non hanno una base scientifica e che sono nate in ambito giornalistico, quindi è sensazionalismo fondamentalmente. Poi tra l'altro c'era una virologa che per appunto parlava di, a prescindere dal significato o meno, il fatto che comunque il caso primario di un focolaio spesso non sarà mai noto perché è quasi impossibile. Cioè, sì, non soprattutto puoi, in un contesto come quello italiano dove sono state tamponate tantissime persone, cioè, veramente improbabile. Sì, io avrei un altro pezzo però in questo caso. E, esattamente lui, proprio questo, e mi sa che è perfettamente in tema. Sì, questo sì. Sentite un po'. Yeah. Ma che belli i Madonna, Touch Me, I'm Sick. E dicevamo prima del nostro caro paziente zero. E ci sono tante terminologie, dopo ne vedremo anche un'altra. Però sempre Wu Ming ci racconta che erano proprio i media o i media ad aizzare a trovare il misterioso paziente zero. Ma forse non lo trovavano perché era già stato guarito, e sarebbe stato sempre ignaro del proprio status di contagiato numero uno. Che primato! Oh, che io! Quindi la ricerca del paziente zero cos'era se non un'altra manifestazione di paranoia? Paranoico è chi, anziché domandarsi cosa, si domanda chi. Paranoico non è chi teme un potere totalitario che tutto controlla, ma chi lo evoca è in fondo lo brama, perché sente marcire intorno a sé ogni autorevolezza e ogni significato. Accidenti, come scrivono. Nel mentre gli anziani, cioè soggetti più a rischio, senza particolari tutele, venivano lasciati in balia di un'informazione apocalittica che li bombardava con immagini di supermercati svuotati e bottigliette di amochina in gel ormai introvabili e preziosissime, costringendoli così a precipitarsi in un affollato centro commerciale dove era più probabile il contagio. Stanno facendo morire vecchini! Anche perché... Cosa diceva la nenia prima? Anche perché gli unici che cercano di intervenire per smorzare questo clima di terrore dicono: ma colpisce solo gli ottantenni! E questi poracci sono anziani, stanno al centro commerciale a scroccare il riscaldamento e l'aria condizionata, quindi si sentono comunque sottomessi dal clima. Io direi che il coronavirus colpisce anche imprenditori e gente che va in crociera, comunque. Eh sì, però è... Quindi è buono, non colpisce i bambini. Non colpisce, è un supereroe, questo coronavirus è un supereroe. Oddio. Noi siamo tuttora il paese con più casi accertati, ma solamente perché, forse, dice sempre Wu Ming, facciamo il test a pioggia. A quando tutti. In tutta la Francia, senza scomporsi, ne avevano fatti solo 800. Soltanto nell'Odigiano noi ne avevamo già fatti più del doppio e richiesti ben 4.000. Ora ci sono anche i truffatori. Attenzione, vecchini da casa, non aprite la porta per se qualcuno vi propone un tampone. A chi vi vuole alla tamponare? Porta. Io non so se mi stanno ascoltando dal reparto di medicina di Cona, però di Ferrara, però io vorrei sapere davvero, rispondetemi, ma tamponare lo dite? Si può? Pronto? Vogliamo saperlo. E, c'era un'altra parola molto molto bella che mi piaceva, che la stiamo ritrovando nella nostra scaletta, lockdown. Perché aveva tutto origine qua. Nel suo capolavoro Sorvegliare e punire, Michel Foucault aveva descritto un lockdown del XVII secolo. Quindi Sorvegliare e punire, nascita di una prigione, ci raccontava proprio come questo essere chiusi a chiave, in quarantena, sì, fosse già una precauzione che veniva presa quando la peste si manifestava in città, in particolar modo nella peste, che è una delle ultime che ha colpito, ha flagellato, flagello. O flagello di Dio, che ha flagellato l'umanità. E, ma se volete si legge un piccolo estratto di Foucault. Sì, tanto ormai ci siamo, stasera una puntata a lettura. Oppure no, no. No, no. No, io vorrei... cambia idea, la Nina cambia idea. Sì, cambia idea perché vorrei un attimo... Come cambia il vento. Vorrei sentire come sto, vorrei un attimo capire se mi è successo qualcosa nel mentre, se invece è tutto a posto. Chi è Don Fantocci? No, io sono Fantocci, senza il don. Il sacerdote sono io. Dalle sue lastre non risulta nulla, lei come paziente potrebbe andare, ma come sacerdote è meglio che rimanga. Chi? Ma che c'è? Bene. Ma chi? Sto benissimo, no? Non hai avuto niente. Io. Questa, signor Fantocci, Fantocci, è La radiografia dei suoi polmoni. Ah, sono belli, no? Lei ha qualche parente qui con i quali io possa parlare? Ma che c'è? No, no, c'ho mia moglie, ma se è una cosa grave non vorrei che sapesse niente. La vede questa macchiolina bianca? È piccolo, allegri, niente qui, sanissimo. Quella è l'unica parte sana. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, in articolo mortis, signor Cupazzi, ego ti assolvo, peccati tuoi. Scusa, sa. Matto! Dottore, è grave. È grave. Incurabile. Una settimana. Una parentesi trescissima, Fantozzi in paradiso, dal radiologo, i suoi polmoni. E passiamo, l'unica trasmissione probabilmente al mondo che è in grado di passare da Fantozzi a Foucault. Trattiamo solo cose che Fantozzi iniziano con la stessa lettera. Fantozzi di miei parenti, tra l'altro, non di Salce questo. Allora, secondo voi, perché Foucault aveva scritto di quarantena nel XVII secolo? Perché quella logica era sopravvissuta anche dopo la peste, anche se in realtà l'ultima peste ha sfiorato il 1007, La quarantena era rimasta come possibilità, opzione sempre praticabile nel rapporto tra pubblici poteri e corpo sociale. Quel normare lo spazio urbano, le vite e i corpi, aveva aperto la strada all'affermarsi delle società disciplinari, eccolo qua, del XIX-XX secolo. E io ora vorrei trovarvi anche l'etimologia della parola quarantena, che è molto... Perché in principio... Era una legislazione che ti manteneva fuori dalle acque del territorio in cui stavi entrando per 40 giorni. Esatto. Questa cosa si usava anche per i cani nei paesi anglosassoni. Quarantine. Sì. Però è un termine che deriva dal Veneto, sì, ovviamente. Vedi. Perché la peste è sbarcata proprio giusto lì. E quindi... Ostrega. Periodo di 40 giorni e un digiuno anche di 40 giorni, però insomma è una condizione di isolamento, di esclusione da ogni gruppo ed è appunto una forma che viene attestata nel XIV secolo, quindi siamo proprio nel 1348 quando la grande pestilenza ha colpito questa razza di animali che siamo resistentissimi a tutto, manco i ratti quasi, capito. Attenzione. Vabbè. Ci si avvia verso la conclusione di questa trasmissione incoroneta. E se abbiamo avuto anche come sottofondo Corona 1994, era stato preparato anche un altro brano. Questo è il migliore di tutti. È veramente una cosa da intenditore. Sì, lasciamo le chicche per la fine, per la semi-chiusura. Orecchio assoluto, ragazzi, preparatevi. Sì, anche voi riuscite a indovinare. Sì. Critici della musica, aprite bene le orecchie. Quello che ho subito in questi 80 giorni da parte di tanti, da parte dello Stato, ma soprattutto da parte della Procura di Potenza, è vergognoso, è vergognoso, è vergognoso. Ma quello che ho subito oggi, ancora, sempre dalla Procura di Potenza, è ancora più vergognoso, più vergognoso. Io sto giù con Fabrizio, l'uomo che ha scardinato l'Italia del vizio, tutti sempre pronti a dare il proprio giudizio. In Italia è così, vogliono tutti fama e soldi come divide i film, ma non è Italia tutta un pezzo come D e G. Ehi, fra in Italia si sclera, dove l'invidia degli altri ti porta dritto in galera. Tutto non è come appare, affoghiamo in questo male. E la colpa non è mia di Corona, le morti dopo l'indulto ne sono solo la prova. Mi sono sentito ostaggio dello Stato, mi sono sentito ostaggio dello Stato, mi sono sentito ostaggio dello Stato, ostaggio dello Stato, ostaggio dello Stato. Ehi Bucco, che Fabri ha ammazzato qualcuno, 3 mesi così non se li è fatti nessuno, e questa è la giustizia dello Stato, sei bello e condannato, prima di essere stato giudicato. Corona non perdona, ostaggio dello Stato. E qui vi volevamo. Abbiamo dovuto ascoltare una raffica di cazzate, di una manfrina veramente. Per arrivare a Corona, per arrivare non, a Corona perdona. Non perdona. Perché a quanto pare uno dei tanti titolari di Corona della storia italiana ha deciso di dire, di rispondere così davanti al pubblico benissimo. Certo. Ma va benissimo, cioè nel senso. Noi non ci tange la questione, era giusto insomma per come dire comunanza semantica. Ebbene, allora oggi giovedì, eravamo in diretta chiaramente. Pensate, stiamo per finire, culo, guarda ragazzi. Un po', hai visto, mentre il sabato ci potrete riascoltare alle 18 sempre in streaming dalle 18 alle 19, oppure la domenica dalle 15 alle 16, sempre andando sul sito wombat.noblogs.org. Invece se desiderate ascoltarci quando vi pare, potete andare sempre sul sito e scaricare il podcast. E il gioco è fatto, pensa un po'. Facile, semplice, veloce e indolore come una puntura. Esatto, e in generale tutti i podcast della nostra fantastica radio. Ricordiamo che le trasmissioni sono tante, adatte a tutti i gusti, quindi non vi tirate indietro, dal lunedì alla domenica potrete ascoltare la qualunque. Siate golosi. Mi raccomando poi, se non sapete cosa fare quando non ascoltate la radio, andate sul sito lapunta.org, perché lì finalmente troverete la vera agenda che vi racconterà quello che viene fatto negli spazi liberi e liberati di Firenze, e lì potrete trovare le svolte alla vostra socialità. Svolte amichevoli in cui spesso e volentieri presenziamo anche io e la Nenia. Eh sì, lavoro permettendo, diciamo che a vostro rischio e pericolo ovviamente. Siamo lì generalmente con una birra in mano, un Vladimir in mano, talvolta, un Borghetti sempre. E vodka in mano, wow, con cose da bere. Borghetti e vodka, il Black Russian, quanto mi manca, dopo. Ma io dopo non posso, mi alzo prestissimo domani. Ah, perché poi non dormi. Sì, il caffè, sai, bisognerebbe trovare un liquore al caffè decaffeinato. Con questo chiudiamo la trasmissione. Di liquori fatti in casa, non vi prego. Non al coronavirus. E forse anche un po' io di... l'alcol ora virus. Wow. È diverso. Dopo il Toto Codogno, l'al coronavirus, il covidiane 19 e ne abbiamo. Scriveteci tutte le vostre per tutti i sistemi immunitari. Tutti da quello dell'alcolista a quello del bestemmiatore. Ce n'è per tutti, signore e signori. Scriveteci immunoglobuline, preparatevi. Stiamo arrivando. Bene. Si conclude con un pezzo meraviglioso. Però non mi ricordo se preferivi quello o quell'altro, e quindi l'ho quasi trovato, eccolo. Perché avevamo tanti, cioè c'erano troppi pezzi musicali adatti a questa puntata, quindi abbiamo un surplus, abbiamo dovuto scegliere via perché non ce la sentivamo di escluderli a priori, ma adesso abbiamo le idee chiare. Assolutamente sì. Quindi, vi lasciamo con questa musichina. Minus Man, Corona. Vabbè. A presto, braci e abbracci. Braci e abbracci, a risentirsela. Chissà, a giovedì prossimo. A giovedì prossimo, ciao, certo Bruschetti. Che sì. Ciao. Ciao Bruschetti. Ciao.